silenzio comunisti della capitale. Hai giunto ormai in della riscossa, quando alzeremo sopra il Corinale bandiera rosa. Questa città arriveremo indomata dalle rovine dei. E allora 10 e 17 lunedì 30 aprile 2012, Radio Onda Rossa 87.9 FM o se preferite www.ondarossa.info. Come ogni lunedì a quest'ora, questa è Radio Euskadi, la storia, la musica, la politica, le lotte dal Paese Basco e non solo. Oggi puntata molto ampia e assai lunga, tante le cose da raccontare. E se la polizia se la sempase, risponderemo dalle barricate. Intanto le commemorazioni, ce ne andiamo in Portogallo perché la settimana scorsa è stato il 25 aprile, lo sapete, il 25 aprile non è il 25 aprile solo in Italia, ma il 25 aprile anche in Portogallo, 25 aprile del 74, la rivoluzione dei garofani che chiude i conti con la dittatura fascista più antica d'Europa. La la la la la la la la la. E ne apre altri che purtroppo poi non trovarono un ottimo fine, ai noi. Comunque parleremo delle commemorazioni del 25 aprile di quest'anno in Portogallo che sono state piuttosto problematiche, poi nel adiacente stato spagnolo i dati sull'economia che sono peggiorano di giorno in giorno, così come peggiorano le misure imposte dal governo di Madrid sotto dettatura della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Tante proteste, tante mobilitazioni e anche tanta repressione. Hola, muy buena. Ovviamente il punto sulla repressione, in particolar modo la repressione preventiva che si è sviluppata dopo l'ultimo sciopero generale nazionale nel Paese Basco prima e in Catalogna adesso, e parleremo del processo che alcuni definiscono di baschizzazione dello Stato spagnolo. Niente di positivo ai noi. Perché per baschizzazione dello Stato spagnolo si intende l'esportazione in tutto lo Stato della legislazione speciale presunta antiterroristica adottata nel Paese Basco. La lotta armata attualmente non è in corso, ma la lotta contro il terrorismo, almeno i metodi che si utilizzano nella lotta contro il terrorismo, così come almeno vengono definiti dai media ufficiali, proseguono. E allora bisognerebbe capire dove sta effettivamente il problema. E poi altre commemorazioni, altri ricordi. 75 anni fa la strage di Guernica, il paese simbolo del Paese Basco stesso, rasa al suolo dall'aviazione militare tedesca e italiana nel ormai lontano aprile del 1937. Leggeremo ampi brani di un bel libro di Angelo Dorsi uscito proprio in occasione del 70° anniversario della strage, Guernica 1937, le bombe, la barbarie, la menzogna. E infine c'è un film che è attualmente sugli schermi italiani, è arrivato con 4 anni di ritardo, succede anche questo in un paese che definire provinciale è dire poco. Si tratta di un film dell'artista britannico Steve McQueen con Michael Fassbender, il film si chiama Hunger ed è dedicato a Bobby Sands, ne parleremo in chiusura di trasmissione. Yeah. misericordia, mater misericordia, mater misericordia, salve, redenta, mater misericordia. E allora rientriamo in voce, salutiamo il buon Paolino Prozac che oggi non sarà dei nostri qui in radio, quindi l'appuntamento con lui, con le sue selezioni musicali e le sue letture è per lunedì prossimo, come sempre intorno alle ore 14, e noi adesso andiamo a cominciare la trasmissione di oggi. La cominceremo con due corrispondenze che abbiamo ripreso dal sito di Radio Onda d'Urto. La prima concerne appunto le commemorazioni del 25 aprile in Portogallo. Diciamo prima, il 25 aprile in Portogallo si ricorda, si festeggia la rivoluzione del 1974. Rivoluzione che poneva fine nel 1974 a un al più lungo regime fascista d'Europa, una rivoluzione che si aprì con grandi speranze, grandi prospettive per il futuro. A un certo punto il Portogallo, insomma, sembrava poter essere un paese che poteva guardare a un avvenire radioso e progressista. Poi i soldi degli americani, le pressioni internazionali di ogni tipo fecero in qualche modo recedere quei propositi scritti in una costituzione che non solo in Portogallo è molto bella dal punto di vista formale, ma poi nella pratica è stata abbastanza poco praticata. Comunque, al di là di quello che è successo poi, il 25 aprile è una data fondamentale nel Portogallo moderno, è la data di nascita del Portogallo post fascista. Ogni anno viene commemorata quella data, quest'anno le celebrazioni sono state abbastanza sottotono. Il Portogallo è strangolato dalla crisi e dall'austerità imposta dalle istituzioni finanziarie internazionali e da un governo ultraliberista. Non c'era granché voglia di festeggiare, e tant'è che l'associazione 25 aprile, che in Portogallo, diciamo, può essere vagamente paragonata, mutatis mutandis, all'AMPI in Italia, ma insomma la situazione è completamente differente. Oltretutto stiamo parlando di fatti che sono avvenuti meno di 40 anni fa, quindi con tutto quello che ciò comporta. Comunque, l'associazione 25 aprile, che di solito organizza le celebrazioni ogni 25 aprile in Portogallo, ha deciso ha deciso ufficialmente di disertare le celebrazioni istituzionali, perché il contratto sociale stipulato fra militari e cittadini, scrive l'associazione, e che ha gettato le basi della democrazia lusitana, è stato cancellato completamente dall'attuale governo. Andiamo ad ascoltare questa corrispondenza. There is every year consists on celebration in the parliament. Come ogni anno, le celebrazioni in Portogallo prevedevano incontri e interventi istituzionali in Parlamento, questo alla mattina. Quindi nella prima parte della giornata del 25 aprile la commemorazione ha avuto un carattere istituzionale nell'assemblea parlamentare. Ma c'è stata una defezione molto importante. L'associazione 25 di aprile, corrispettivo dell'AMPI in Italia, ha rifiutato di partecipare alle celebrazioni in Parlamento, quindi alle celebrazioni ufficiali, perché i valori, secondo l'associazione, sono stati violati, i valori della rivoluzione sono stati violati e manipolati, questo a causa delle recenti misure di austerità del governo e dello schiavismo imposto dal sistema economico. Every year there's a parade of the people go to the streets La seconda parte della giornata del 25 aprile in Portogallo, come ogni anno, è dominata dalla parata, dal corteo nel centro della capitale. Quest'anno diverse migliaia di persone sono scese in piazza, ma il tono era totalmente diverso da quelli degli anni passati. Non era un'atmosfera di celebrazione, ma un'atmosfera di lotta contro la situazione economica e contro le misure di austerità imposte da governo e istituzioni finanziarie. What are these values that have been violated? Quali sono i valori che sono stati traditi? Questo contratto sociale fra militari e cittadini che portò alla costituzione della democrazia portoghese e che l'associazione 25 di aprile denuncia che sia venuta meno. Il 25 aprile 1974 c'è stata una rivoluzione in Portogallo che intendeva dare la libertà alla gente. Questo era il primo punto, libertà dopo 40 anni di durissima dittatura, e la gente quindi voleva riprendersi la propria libertà. Ma i militari progressisti che hanno fatto la rivoluzione, che l'hanno avviata, pensano oggi che questi valori siano stati limitati, e la libertà è stata limitata, la libertà di scegliere è stata limitata dalle misure del governo, dai tagli del governo, dalla limitazione dei diritti. Quindi la gente pensa che l'economia e la situazione economica gli sta rendendo prigionieri ostaggio della troica e delle istituzioni finanziarie internazionali a cui il governo obbedisce. Quando il 25 di aprile è molto importante in Portogallo, perché oltre alla libertà i militari hanno messo le basi per un sistema più solidale, per l'educazione gratuita, per la salute gratuita, per la sicurezza e la previdenza sociale gratuita. Ora paghiamo invece per i debiti che non abbiamo contratto, debiti contratti da politici e dai banchieri che hanno ridotto, se non annullato, le conquiste e i diritti del 25 aprile del 74 e della rivoluzione dei garofani. What were the reactions within the whole Portuguese? Qual è stata la reazione all'interno della società portoghese davanti a questo boicottaggio da parte dell'associazione 25 di aprile, e anche qual è stata la reazione dei media? Insomma, c'è stato sorpresa, c'è stato scandalo, c'è stata comprensione? Understood why this 25th of April is not the same as the others. Yes, it was something that that came on the media with a bit of surprise, because the 25th of April association. Molti media sono rimasti spiazzati and it was the per il gesto dell'associazione, intendo, perché è la prima volta che l'associazione 25 di aprile, che ripeto difende i valori della rivoluzione, beh, è la prima volta che non partecipa alle cerimonie ufficiali e istituzionali. La gente però che è scesa in strada nel pomeriggio era in totale solidarietà con l'associazione e con i pochi politici e amministratori che non hanno voluto partecipare. Two important figures also refused to participate, which were Mário Soares. Due figure molto importanti per il paese non hanno partecipato e quindi hanno dato il loro appoggio alle associazioni, all'associazione 25 di aprile e ai movimenti che sono scesi in piazza. Mário Soares, l'ex primo ministro portoghese, il ministro della transizione, il ministro che fece entrare il Portogallo in Europa nel 1986. Manuel Alegre, poi socialista e protagonista della rivoluzione del 25 aprile. Eravamo in decine di migliaia in piazza a Lisbona. C'era pioggia, faceva freddo, ma la rabbia della gente era palpabile. Do you think the Portuguese people will reappropriate themselves? Quali conseguenze credi che avrà questo gesto clamoroso? È uno spartiacque forse nella storia della democrazia portoghese che porterà più sfiducia, nella gente per aver perso le conquiste della rivoluzione, più sfiducia nei confronti del governo? O sarà forse l'inizio di una nuova fase più intensa di proteste per riappropriarsi dei diritti persi? In their daily life that they are losing quality of life, they are losing money in their salary. Io credo che sarà un motore per una nuova ondata di proteste più intense. Le persone qui in Portogallo vivono molto male, forse i media europei non spiegano esattamente qual è la situazione del paese. Le persone sono depresse, le persone si uccidono e sentono quotidianamente che stanno perdendo la qualità della vita, soldi nei salari, perdendo i diritti, perdendo i benefici che potevano dare i servizi sociali prima dei tagli dell'austerity. Perché quando devi tagliare devi ridurre la qualità dei servizi sociali. E io credo onestamente, personalmente, che le persone sono arrivate a un tal punto di disperazione e che questa defezione dell'associazione 25 aprile porterà più gente per strada. Beh, Mario Soares magari si sarebbe potuto ricordare un pochino prima qual era la situazione nel suo paese, visto che poi era uno di quelli che l'anno scorso chiedeva decretare la bancarotta. Comunque, vabbè, meglio tardi che mai. Oppure, per essere più cattivi ma forse anche più realisti, si può pensare che se anche alcuni vecchi volponi della politica istituzionale portoghese si rendono conto che la situazione è arrivata davvero a un millimetro dalla rottura, allora come dire, lo spettro della Grecia, come lo chiamano i media ufficiali, appare evidente anche per il Portogallo. E dal Portogallo alla Spagna la situazione non pare migliorare per quanto riguarda gli indici macroeconomici. La disoccupazione è ai massimi da 18 anni a questa parte, il tasso di senza lavoro è salito nel primo trimestre dell'anno, si parla ormai di quasi un quarto della popolazione che si ritrova a casa, e addirittura risultato peggiore di quelle che erano le già nefaste attese dei mercati finanziari. Sul finire della scorsa settimana l'agenzia omicidi di rating Standard & Poor ha deciso di declassare il debito pubblico spagnolo, prevedendo la necessità dello Stato iberico di ricapitalizzare le banche attraverso i soldi pubblici e quindi causando un'ulteriore impennata del deficit. Il ministro dell'economia di Madrid ha subito negato qualsiasi pressione da parte delle autorità europee per indurre la Spagna a chiedere un salvataggio, ma insomma la situazione appare decisamente problematica. Borsa in tracollo la settimana scorsa, annuncio di nuovi ulteriori e pesantissimi tagli su tutti i servizi pubblici e nuove manifestazioni e iniziative di protesta un po' in tutto il paese. Anche qui andiamo ad ascoltare un brevissimo estratto, questa volta da un'intervista a un economista italiano. Mi pone ancora la questione sulla credibilità e la validità di queste decisioni delle società di rating. È comunque una decisione che viene un po' nell'aria, perché le tensioni che si sono sviluppate sul debito pubblico spagnolo nelle ultime settimane, aizzate proprio dalla pressione speculativa di queste grosse banche multinazionali, dalla Deutsche Bank alla Goldman Sachs, che hanno degli interessi precisi e sono fortemente collusivi con la struttura proprietaria delle società di rating, che dovrebbero, e quindi c'è un conflitto di interessi grande come una casa, anzi anche molto di più in questo contesto, era, dice, una decisione abbastanza nell'aria, perché quando il nuovo governo di centrodestra spagnolo ha presentato la finanziaria, il piano di rigore imposto dall'Europa, aveva comunque già sforato negli obiettivi i limiti posti dalla Commissione europea e sancito dal Fiscal Compact, cioè le politiche comuni di rigore che erano state stabilite il 31 gennaio scorso. Allora, questa è la situazione nello Stato spagnolo. Come reagisce lo Stato spagnolo di fronte a questo e soprattutto come reagisce di fronte alle proteste popolari? Reagisce male, ci verrebbe da dire. Da un lato c'è il più completo appiattimento ai diktat della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale, delle agenzie di rating. Dall'altro la baschizzazione del paese, ovvero l'imposizione sostanzialmente dello stato di emergenza per tutto il territorio nazionale, per chiunque voglia scendere in piazza, chiunque voglia protestare, chiunque voglia dire la propria. A riprova che evidentemente il problema della mancanza di libertà nel Paese Basco non era dovuto alle azioni militari di ETA, perché ETA ha cessato il fuoco ormai da diversi mesi, eppure la legislazione speciale va avanti, e non va avanti solo nel Paese Basco, ma in realtà si è completamente e tranquillamente estesa a tutto il territorio nazionale. Andiamo in Catalogna, dove la giudice Rosa Maria Agulló Berenguer, già nota ai movimenti catalani per essersi resa protagonista in passato di provvedimenti a dir poco singolari, ha decretato l'arresto preventivo e a tempo indeterminato, la notizia è di giovedì scorso, per Laura Gómez, 46 anni, attuale segretaria dell'organizzazione della CGT, la Confederación General del Trabajo, di Barcellona. La polizia catalana ha prelevato la sindacalista la mattina del 24 aprile. Come per i casi di detenzione immediatamente successivi allo sciopero generale del 29 marzo, anche qui si giustifica la condanna per il rischio di recidiva nelle manifestazioni di maggio. Peccato che la Gomez abbia partecipato solamente a una performance simbolica, durante la quale vennero bruciati 4 cartelli di fronte all'ingresso principale della borsa di Barcellona durante lo sciopero generale. La reazione della CGT non si è fatta attendere, il comunicato immediatamente successivo all'arresto ha cercato di richiamare l'attenzione di tutta la società catalana, esigendo un'immediata liberazione di tutti i detenuti dopo lo sciopero generale, condannando la stretta repressiva contro proteste sociali del tutto legittime e invitando la popolazione a rispondere in maniera forte e di massa a quella che sembra essere sotto gli occhi di tutti un tentativo delle principali forze politiche di non dare risposta alle richieste dei movimenti sociali, ma porre l'accento solamente su questioni di ordine pubblico. L'arresto, peraltro, si va a sommare a quelli compiuti fra il 19 e il 20 aprile, che hanno coinvolto 6 attivisti catalani e 12 del Paese Basco. I movimenti intanto hanno già annunciato un ritorno in piazza. Sono scesi in piazza ieri attraverso una marcia di protesta contro gli arresti preventivi e per reclamare l'immediata scarcerazione degli attivisti. Una mobilitazione che è giunta all'inizio della settimana, che si è aperta sabato scorso e finirà sabato prossimo, se non vado errato, in cui lo Stato spagnolo sospenderà il trattato di Schengen, chiudendo la frontiera con la Francia per evitare possibili arrivi di manifestanti dall'estero in occasione della riunione dei ministri e funzionari della Banca Centrale Europea prevista per giovedì a Barcellona. Non è da escludere che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori arresti e la polizia catalana si è già dotata di una pagina online dove invita espressamente la cittadinanza a ricorrere alla delazione verso chiunque possa rendersi protagonista di comportamenti volti a turbare la quiete pubblica. Esa jerga que emplea. dalla Catalogna al Paese Basco, ancora tematiche relative alla repressione. Qui passiamo alle vicende relative alla morte di Íñigo Cabacas, il giovane tifoso dell'Athletic Bilbao ucciso da una pallottola di gomma sparata dalla polizia autonoma basca dopo la partita, in seguito ai festeggiamenti per la partita Athletic Bilbao Schalke 04. Una vicenda che continua a imbarazzare in maniera assoluta e totale sia la stessa polizia autonoma basca sia il suo riferimento, ovvero sia il Ministero dell'Interno del Paese Basco nella persona di Rodolfo Ares, che è quello che tiene il dicastero. La settimana scorsa abbiamo raccontato come all'interno della stessa polizia autonoma basca si siano levate parecchie voci che in qualche modo si distaccavano dall'operato della pattuglia, pattuglia che fa parte di un gruppo speciale con compiti di repressione delle attività per strada. E il fatto che continua ad esserci un enorme mobilitazione su questo tema, e che è una mobilitazione che è andata anche ampiamente oltre quelli che sono i recinti classici della sinistra basca, mette in enorme difficoltà la polizia e il Ministero del Interno, considerato anche che l'Athletic gioca fra poco la finalissima di Europa League. Cortado! Oi, oi, oi! Allora salutiamo chi ci ha chiamato, ritorniamo a quello di cui stavamo parlando, ovvero sia le vicende relative alla morte di Iñigo Cavacas. Grande mobilitazione che continua, grande imbarazzo da parte di polizia e ministro dell'interno, ma anche come dire, i sindacati della polizia e i loro responsabili che non hanno alcuna intenzione di fare marcia indietro. Ci sono delle dichiarazioni che ha fatto il sindacato della Ersanza ERNE, con cui sostanzialmente si dice che non è possibile parlare dell'assassinio di Iñigo Cavacas come di un omicidio imprudente, perché è stato aperto, la magistratura spagnola è stata costretta ad aprire un procedimento con l'accusa di omicidio imprudente nei confronti di chi ha sparato la pallottola di gomma. Procedimento che immaginiamo andrà a finire, come sempre accade in questi casi, in un nulla di fatto. Però comunque è stato aperto, ma i vertici dell'Ersanza hanno fatto sapere che non se ne parla neppure. È stata chiesta a grande velocità per il giudizio. Sempre i rappresentanti del sindacato hanno detto che la morte di Iñigo è stata un caso fortuito, non c'è stata nessuna intenzionalità. Certo, se spari una pallottola di gomma in testa a una persona è difficile dire che non ci sia intenzionalità. Tutto è stato fatto correttamente, sono stati applicati i procedimenti che si applicano sempre e comunque in questi casi, e sarà la stessa polizia autonoma che investigherà su se stessa, ha fatto sapere il sindacato. Possiamo immaginare come andrà a finire questa indagine interna. E il ministro dell'interno Ares è comparso al Parlamento di Gasteiz, al Parlamento basco, per spiegare quello che è successo. Ha detto anche lui che ci sarà un'indagine interna che spiegherà tutto, il che significa appunto che tutto, almeno nelle intenzioni di Ares, dovrebbe rimanere così com'è, garantendo l'impunità. Non c'è granché da aspettarsi da queste indagini, ma c'è sicuramente molto da aspettarsi riguardo le mobilitazioni che si stanno continuando a tenere in tutto il Paese Basco, e che probabilmente vedranno un'ulteriore crescita fra pochi giorni, quando l'Athletic Bilbao giocherà la finale di Europa League, ovvero sia la competizione al cui interno si è giocata la partita in seguito alla quale poi si è verificata la morte di Iñigo, ed è probabile, insomma, che ne potremo vedere delle belle. Zapallazos paturik, iruñeko txerroa, desentxerroa, gertatzen zarretan zerbait ikusteko adubi falta direla kozpe kuento generalea. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sono quasi le 11 in punto. Noi dovremmo aver esaurito la parte della trasmissione relativa alle cronache e quindi ritorniamo alla storia del 25 aprile, abbiamo detto in apertura, 25 aprile in Italia, 25 aprile in Portogallo. Adesso passiamo al giorno successivo, al 25 aprile, il 26 aprile, che al contrario del giorno precedente è una data decisamente infausta, perché è la data in cui si ricorda il bombardamento di Guernica, il 26 aprile 1937, in piena guerra civile spagnola. Bombardamento che è passato alla storia come il primo bombardamento a tappeto di una città, almeno in Europa, perché in Medio Oriente era successo anche prima. E il primo probabilmente utilizzo di questo metodo di combattimento, di questo metodo di sterminio, per ragioni non militari, diciamo, ma politiche e psicologiche. Guernica non viene rasa al suolo perché al suo interno sono asserragliate forze militari o ci sono obiettivi sensibili, viene rasa al suolo per fiaccare la resistenza della popolazione basca, perché Guernica è il simbolo stesso del paese basco, è il luogo dove ha sede un antichissimo albero che è un po' il simbolo stesso dell'indipendenza del paese basco, e quindi da qui la decisione dell'aviazione tedesca e di quella italiana di radere al suolo il paese il 26 aprile del 1937. Un procedimento che poi sarebbe stato ampiamente adottato a partire da 2 anni dopo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E un bombardamento, quello di Guernica, che ebbe un'enorme eco mediatica, ovviamente, tant'è che persino i fascisti spagnoli non se lo rivendicarono, perché tale era l'orrore suscitato che non si rivendicarono quello sterminio, quel mattatoio. E una vicenda che poi sarebbe stata resa immortale da uno dei più importanti artisti del Novecento, Pablo Picasso, che al bombardamento di Guernica dedicò uno dei suoi quadri più famosi, quadro che attualmente si trova ingiustamente al padiglione Reina Sofia di Madrid, dovrebbe stare da altre parti, ma insomma lo Stato spagnolo sapete com'è fatto. Volevo volevamo ricordare Guernica leggendovi alcuni brani e consigliandovi un libro che è stato pubblicato 5 anni fa in occasione del 70° anniversario del bombardamento di Guernica. Il libro si chiama Guernica 1937, le bombe, la barbarie, la menzogna. È un libro edito dall'editore Donzelli e la firma è quello di Angelo D'Orsi, che è un professore di storia del pensiero politico all'Università di Torino. Un libro piuttosto agile, stiamo parlando di poco più di 200 pagine, che può essere insomma consigliato sia a chi è in qualche modo già informato sui fatti, ma anche a, insomma, a persone, soprattutto giovani, studenti, studentesse, che in qualche modo si vogliono avvicinare a questo tema, anche perché in realtà la parte dedicata al bombardamento vero e proprio di Guernica è piuttosto limitata, il primo capitolo e alcuni degli ultimi, e il libro rappresenta più un resoconto, un riassunto generale delle vicende relative alla guerra civile spagnola e al comportamento dei fascisti spagnoli, tedeschi e italiani nella guerra. Sicuramente con qualche posizione criticabile, per esempio riguardo alle formazioni antifasciste italiane, insomma pareri che possono essere discordanti, ma in generale un lavoro fatto con estrema serietà e correttezza. Tanto più utile perché su Guernica si è cercato di fare un'opera di revisionismo mostruoso quasi sin da subito dopo il bombardamento. Si è detto che il bombardamento non c'era stato, poi che era stato molto relativo, che le vittime non erano così tante come si diceva, che in realtà Guernica era stata bombardata perché dentro c'erano delle fabbriche d'armi, che in effetti erano vicino al paese ma non furono toccate perché servivano ai fascisti spagnoli, furono toccate solo le installazioni civili. Bugie assolutamente prive di fondamento che sono continuate anche dopo l'ammissione ufficiale da parte del governo della Repubblica Federale Tedesca anni dopo, che disse chiaramente Guernica è stato un mattatoio e l'abbiamo fatto noi, e vennero portate anche fior di prove documentali. Del resto, nel corso della presentazione dell'opera 5 anni fa qui a Roma, Angelo D'Orsi disse una cosa molto interessante. Disse: noi purtroppo viviamo nell'era della storia fatta a porta, e spiegò il suo pensiero. Gli storici, disse D'Orsi, e penso che continui a dire, sono degli scienziati, e la storia è una scienza sociale, una scienza particolare, ma ha le sue regole, i suoi comportamenti, le sue strutture, e tutti gli storici e tutte le storiche di qualsiasi estrazione politica e culturale siano rispettano certi canoni e certi meccanismi. Nell'era della storia fatta porta a porta, era il 2007, sembra tanti secoli fa ma era solo l'altro ieri, disse D'Orsi, invece funziona così: io vengo chiamato a porta per parlare di Guernica, Bruno Vespa mi chiede di parlare di Guernica e io dico quello che so, che ho raccolto in anni e anni di ricerche, di testimonianze, di prove documentali. Poi mi leva la parola e dice: adesso sentiamo quest'altra persona che magari di mestiere fa, non so, l'ingegnere idraulico o il commerciante, e sentiamo cosa ha da dirci. Quell'altra persona dice l'esatto contrario che dico io, senza portare uno straccio di prova documentale. Alla fine il conduttore si rivolge al pubblico e dice: bene, avete sentito le due campane, decidete voi qual è quella che ritenete più esatta. Questa è, secondo D'Orsi, la storia nella età di porta a porta. Speriamo che quei tempi siano finiti, ma abbiamo qualche dubbio in merito. Guernica è toponimo basco, scrive Dorsi, il nome corretto in lingua euscara di una località della Biscaglia, quella distrutta da un bombardamento il 26 aprile del 1937. Quella che noi chiamiamo, secondo la versione in lingua castigliana, Guernica. Questa è la grafia, questo è il suono che ci sono impressi nella testa, nella pancia, nella lingua da 7 decenni. O meno, se siamo più giovani. Ci sono nomi che sono simboli, ci sono eventi che sono fatti storici, ci sono fatti storici che segnano tappe epocali, ci sono epoche contrassegnate da volti, immagini, nomi che ne incarnano l'essenza. Guernica è uno dei simboli, reso tale specialmente dal quadro di Pablo Picasso, un simbolo, il simbolo dell'epoca di ferro e fuoco che fu il trentennio fra le due guerre mondiali, forse l'icona stessa del secolo breve. Simbolo, se ci si avvicina di più, della capacità di individui, di gruppi umani, di commettere crimini efferati contro l'umanità stessa. E altrettanto grave del bombardamento fu la menzogna. Già, perché mentre la città è stata ricostruita e vive la sua vita normale, fra un turismo attirato proprio dall'evocazione storica di quel nome, un turismo che è un po' del pellegrinaggio religioso, un po' del fenomeno di massa, un po' della curiosità non priva di elementi morbosi, la menzogna colpisce ancora, non solo nelle ricostruzioni che circolano sugli eventi del 37. Al di là di quegli eventi, la menzogna ha continuato a operare dentro e fuori la Spagna post-franchista, nelle discussioni fra storia e dibattito civile, specchio della presenza massiccia della menzogna nelle tante Guernica dell'oggi. 1937, Guernica, lontani i fatti, morti tutti o quasi i suoi protagonisti. Quel luogo vive anzitutto nella dimensione immaginaria dei simboli, vita virtuale, memoriale, di uno di quei simboli che la storia produce e imprime nella psiche umana, come un marchio indelebile, una lettera scarlatta di cui l'umanità intera deve portare la vergogna, anche se le responsabilità sono, come sempre, di individui e alle loro spalle di forze politiche e di gruppi sociali. Guernica costituisce dunque un simbolo forte, paragonabile all'immagine delle Twin Towers colpite da ieri l'11 settembre 2001, avvolti in nuvole di fuoco e di polvere, di fumo prima bianco, poi grigio, poi scuro come la pece. Anche il fumo che avvolse Guernica cambiò colore, ma solo con il trascorrere delle ore. Torniamo a quel 26 aprile, lunedì. Dopo una prima ricognizione con bombardamento della stazione ferroviaria per sondare eventuali resistenze e constatato che nessuna difesa antiaerea era operativa, il bombardamento ebbe inizio. Fra le 16.30 e le 18, ma secondo altre fonti l'azione durò sino alle 19.45, furono scagliati oltre un migliaio di ordigni. Fu il primo bombardamento a tappeto, anche se l'espressione si cominciò a usare più tardi, nei primi anni 40, durante la guerra mondiale. Si realizzò a Guernica un primato e soprattutto una primazia che apriva la strada ad altri tappeti di bombe sulla Spagna, in Europa tutta e fuori di essa, nella guerra che di lì a poco avrebbe incendiato il mondo. Fu una piccola prefazione alla guerra mondiale e alle sue carneficine. Nell'azione aerea fu tutt'altro che irrilevante la presenza, accanto ai bombardieri della Luftwaffe, di aerei SM, ossia Savoia Marchetti 79 italiani, i cosiddetti pipistrelli, e di veloci caccia Fiat CR-32 che svolgevano un ruolo di protezione dei pesanti aerei da bombardamento. Ma non v'era alcun pericolo contro cui gli aggressori dovessero essere protetti. Guernica non godeva di quel che si chiama, in gergo militare, protezione aerea. Colpirla fu un gioco, senza rischio, come certi bombardamenti recenti da oltre 10.000 metri di altitudine, contro città la cui contraerea poteva al massimo raggiungere qualche migliaio di metri. Belgrado, la capitale dell'allora Repubblica Federale di Jugoslavia, per esempio, colpita pesantemente dai aerei della coalizione nella primavera dell'anno 99. Una facile vittoria ottenuta a costo zero. A Guernica non esisteva neppure la contraerea e in tutta la Spagna repubblicana i mezzi per difendersi contro una perfetta macchina da guerra come la Legione Condor erano impari. Come impari era lo scontro. Gli aeroplani tedeschi e italiani dunque rasero al suolo quello che era poco più di un villaggio a 30 km dalla capitale, Bilbao, una quindicina dalla linea del fronte, obiettivo forse non primario sul piano militare ma neppure rilevante in quanto ospitava industrie di armamenti, peraltro accuratamente risparmiate e pochi giorni dopo pronte a sfornare armi per le truppe di Franco. Ed era sede del comando di zona dell'esercito basco, schierato a fianco della Repubblica. I baschi non erano neppure allora entusiasti del governo centrale. Ma stare con la Repubblica era una scelta obbligata davanti alla sedizione di Franco, che esponente di un coagulo di forze e orientamenti di estrema destra non avrebbe sicuramente concesso alcuna autonomia a quelle terre. Inoltre il bombardamento poteva essere uno strumento tattico per i fascisti che miravano probabilmente a una possibile pace separata con i baschi per allontanare dal brocco repubblicano, forse puntando sul loro forte cattolicesimo. Il primo significato del bombardamento non fu dunque militare, l'azione intendeva ammonire, oltre che gli odiati rossi, i baschi. Del resto era uno di quei luoghi, era quello uno dei luoghi sacri della cultura basca, la città già capitale delle province basche, la patria delle libertà basche, era sotto la sua famosa quercia che i monarchi spagnoli o i loro rappresentanti giuravano in ossequio a un'antichissima tradizione di rispettare le leggi locali. L'ordine veniva da Franco in persona, in accordo col suo comandante militare, il generale Mola, vero eroe negativo della guerra civile. Dunque si trattò con buona probabilità di un'azione concordata ai massimi livelli, secondo qualcuno addirittura fra Franco, Hitler e Mussolini, imbarcatosi con ridicola insieme tragica baldanza nell'impresa di Spagna, evidentemente non pago dei successi africani. Alla conquista dell'Etiopia si voleva aggiungere anche a titolo di benemerenza politica il contributo, che la propaganda fascista si incaricò subito di decretare decisivo, alla difesa del continente dall'infezione rossa. Facciamo ancora una volta ritorno al 26 aprile. Il lunedì a Guernica è giorno di mercato e la scelta di agire di lunedì non poteva non avere un significato stragista. E strage fu perché strage doveva essere. Si trattava di sperimentare un'azione di terrore di massa su un obiettivo facile, spazialmente delimitato, non protetto. Disaggiare l'efficienza di nuove armi per una nuova guerra, come prova generale per una vera, nuova, grande guerra. Metà pomeriggio in una relativamente tranquilla borgata rurale del nord-ovest della Spagna, di una delle province basche dove da meno di un anno infuriava la guerra civile. Immaginiamo di levare gli occhi al cielo come fecero i suoi cittadini e i campagnoli dei dintorni venuti in gran numero al mercato. Non era la prima volta che rivolteggiavano e quando si vide qualcosa che usciva dalle loro pance si pensò a volantini di propaganda dei franchisti. Era già capitato. Le campane della chiesa di Santa Maria risuonarono tuttavia, dando quel segnale che già nei giorni precedenti aveva avvertito i baschi degli incipienti bombardamenti in varie località. In effetti, dopo le incursioni su altre cittadine basche, erano stati realizzati un paio di modesti rifugi di fortuna. Accolsero quel pomeriggio del 26 aprile un certo numero di abitanti che riuscirono così a porsi in salvo. Forgive me, Father, for I have sinned a million times more. Forgive me, Father, for I have sinned a million times more. La cittadina, dove accanto ai 7.000 abitanti vivono anche qualche migliaio di profughi, fu attaccata con scientifica sistematicità. Il suo centro andò distrutto. In totale il 70% degli edifici e più fu raso al suolo. L'ambasciatore statunitense scrisse: «Così venne quasi cancellata dalla faccia della terra una città consacrata dalle tradizioni di un popolo civile. 40.000 kg di esplosivo furono impiegati nell'azione. Per i tre quarti era di tipo incendiario e fu una scelta deliberata per non ingombrare troppo il terreno di macerie. Quel che non demolirono le bombe provvide il fuoco a distruggere. Anche questo fa di Guernica una cavia della Seconda Guerra Mondiale. Quanto ai morti, il conto fu reso difficile dalle circostanze, dall'impreparazione dei baschi e dal fatto che meno di 96 ore dopo nella città, o in quel che ne rimaneva, entrarono le truppe franchiste. A distanza di 7 decenni quel conto è ancora incerto. Quasi 2.000, oltre 1.600, un migliaio, circa 200, poco più di un centinaio. Ma è chiaro che si tratta di un dato non così rilevante per tutto quel che si è fin qui detto in relazione ai significati simbolici, gli intendimenti sperimentali, i fini morali. Si trattò di un esperimento di vivisezione praticato su esseri umani. Guernica era considerata una città aperta, di cui non ci si aspettava il bombardamento. La sua distruzione si infranse nella coscienza dell'Europa come il grande crimine di Franco. L'indignazione degli antifascisti crebbe di fronte al tentativo dei fascisti di rigettare qualsiasi responsabilità. Un'indignazione che attraversò l'oceano. Il New York Times scrisse: un tale apice di crudeltà fa inorridire il mondo più di qualsiasi altra barbarie compiuta nella più barbara delle guerre. E lo stesso bollettino ufficiale dell'esercito di Franco, in data 26 aprile, non fa cenno alcuno a Guernica. Cominciava, insomma, all'indomani degli eventi, la grande omissione che immediatamente divenne vera menzogna, rovesciamento di verità. Il bombardamento non c'era mai stato e se danni vi erano stati alla città, certamente la loro responsabilità risaliva ai rossi, ai repubblicani, ai baschi. Il silenzio e le bugie sul bombardamento acuivano l'angoscia dei vinti. Mai ci sarebbe stata una possibilità di riscatto, neppure sul piano virtuale. Una rivincita morale, insomma. E si ingigantiva il significato cupamente ammonitorio di quel bombardamento devastante. Ammonimento ai baschi che sarebbero stati domati, ai rossi che sarebbero stati vinti e sterminati, all'Europa che ammirasse silente la nuova potenza dei fasci e delle aquile, al mondo intero che temesse quella potenza. Ogni redenzione, conclude così il suo primo capitolo Dorsi, passa attraverso il fuoco, attraverso il ferro, attraverso il sangue da versare. E Francisco Franco de Bahamonde, nuovo redentore della Spagna contaminata dal morbo bolscevico, aveva dichiarato all'ambasciatore nazionalfascista: la riconquista del territorio è il mezzo, degli abitanti è il fine. La cattolicità seppe ricompensare il redentore. Nell'agosto 1939 il Consiglio Provinciale di Biscaglia decise che fossero confezionati 3 crocifissi con il legno del Sacro Albero di Guernica, affidandone la fattura a tale José María Garros, scultore di cui si sono perse le tracce nella storia dell'arte. Quando furono pronti, uno fu inviato a Sua Santità, il Pontefice Pio XII, il secondo rimase nella sala consiliare e il terzo naturalmente fu donato a Francisco Franco, il quale il 13 febbraio del 1946 riceveva l'onore di essere nominato figlio prediletto della città. Now when the lightning strikes my ear, I'll have to be on my way. I know just what I have to do, but I won't know what to say. Pack my bags in the dead of night, and I kiss you farewell. I say goodbye to the smoky wind and so long to the grey sky. When I hear the ghost sing whistle in the darkness of my soul. E allora il libro prosegue a lungo, ovviamente noi non abbiamo il tempo di ripercorrerne tutte le mosse, però concludiamo la lettura e concludiamo anche la parte dedicata a Guernica ricordando che reduce dall'Etiopia, in quegli anni, in quei mesi, in quei giorni, nello Stato spagnolo si aggirava quello che sarebbe diventato un principe dei giornalisti in Italia, nonché un grande democratico, un feroce assertore della libertà d'espressione. Stiamo parlando di Cilindro Montanelli, che a partire dal 1937 incominciò a inviare articoli al Messaggero seguendo l'offensiva su Madrid. On the platform, Uomo intelligente e spregiudicato, scrive Dorsi, il giovane cilindro si fece presto una sua idea precisa di quella serissima guerra. L'unica cosa buffa erano gli italiani. Grottesca sarebbe stato un aggettivo più adeguato, forse. Corride e concubine, spavalderie e crudeltà, pressapochismo e improvvisazione. Ecco i ragazzi del 36, del 37, del 38 e del 39. Malgrado l'ironia, Montanelli era un franchista convinto e lo rimase sostanzialmente anche dopo la morte di Franco. I temi trattati da lui corrispondevano a quelli un po' di routine, le crudeltà dei rossi, le loro difficoltà, i dissidi interni, l'avanzata trionfale dei nazionalisti. Aggregatosi a un certo punto a un battaglione franchista, Montanelli non sembrò dar troppo credito né spazio alle azioni degli spagnoli, al cui confronto rifulgeva l'intraprendenza e il valore del corpo volontari italiani. Rifulgeva almeno finché il giornalista si acconciava alla mera retorica di propaganda. Appena però veniva fuori il cronista, la verità si faceva strada. Una frase in particolare suscitò disappunto, tanto nelle autorità spagnole quanto nelle italiane. Descrivendo l'avanzata franchista, egli ebbe a scrivere: «Una lunga passeggiata e un solo nemico, il caldo, un caldo a picco, insistente, brutale. Un'avanzata tirata avanti invece che a furia di fuoco, a furia d'acqua. Scomparsi i rossi, sparito l'eroismo, la guerra veniva presentata in termini di uno stracco turismo». Bastò questo, pensate, a provocare irose reazioni del comandante del corpo italiano Bastico, il quale non esitò a chiedere non il semplice rimpario del corrispondente, ma la sua radiazione dall'albo dei giornalisti. Informato del pericolo, Cilindro Montanelli provvide immediatamente a cambiare registro, sperticandosi in lodi alle truppe franchiste e in fantasiose descrizioni della perigliosa avanzata verso Santander. Ma troppo tardi, la mannaia fascista si abbatté su di lui, malgrado un suo appello al ministro Ciano in persona. Richiamato in Italia, l'incauto cronista di guerra fu inviato a Tallinn, in Estonia, a dirigere il locale Istituto Italiano di Cultura, ossia a fare propaganda per l'Italia mussoliniana in altra veste. I'll be born again. I sold my soul to save my life. I sold that trouble and I bought that strife. If anyone asks me, I'll do it all again. I'd rather die in the muck. I'm up to my neck in all my demons, singing the immigrant song. Welcome home. Welcome home. E allora sono le 11:24, siamo in ritardissimo, concludiamo con un piccolo trailer per quanto riguarda un film che attualmente si trova sui nostri schermi e che pare sia molto bello. Esistono cose come l'omicidio politico, le bombe politiche o la violenza politica. Esistono solo il crimine dell'omicidio, il crimine delle bombe, il crimine della violenza. Non scenderemo a compromessi su questo. Stai bene, Bobby? Sto bene, mamma. Ti danno da mangiare, sì? Inizia uno sciopero della fame il 1 marzo. Scegli il muro contro muro con un governo da sempre irremovibile. Solo l'unica cosa che posso fare. È la cosa giusta. E E allora, questa era la presentazione di un film che è da pochi giorni sui nostri schermi, in realtà un caso piuttosto curioso. Il film è Hunger di Steve McQueen, un omonimo del grande attore, ovviamente, che in realtà risale a ben 4 anni fa, nonostante avesse ricevuto tutta una serie di premi, fra l'altro in festival importanti e o importantissimi come a Cannes, in Italia non era mai arrivato. Poi le fortune del secondo film della coppia Steve McQueen alla regia e Michael Fassbender come attore, Shame, hanno fatto sì che questo film venisse riproposto adesso a 4 anni distanza. E la storia, Hunger vuol dire fame, e la storia è quella di Bobby Sands, la cui storia non dobbiamo certo ripercorrere qui. Il militante dell'IRA morto nel carcere di Lonkesh in Ulster il 5 maggio del 1981. Il film riprende le mosse dalla reclusione di Bobby Sands e di altri membri dell'IRA all'interno di Lonkesh, e racconta quelle che furono le lotte, le proteste all'interno del penitenziario, le blanket protest, le proteste della coperta, e poi le cosiddette dirty protest, le proteste sporche, quando alcuni detenuti, fra cui Bobby Sands per l'appunto, rinunciarono volutamente a qualsiasi misura igienica, iniziando a spalmare i propri escrementi sulle pareti della cella, vivendo costretti a vivere in condizioni igieniche assolutamente spaventose. Un film che molti definiscono in alcuni tratti insostenibile, ma del resto la vicenda di Bobby Sands e dei suoi compagni di lotta e di sventura, morirono altre 9 persone e altri 9 compagni dopo di lui, 6 dell'IRA e 3 dell'ILLA, è sicuramente insostenibile. Un film che insomma ha destato grande interesse da parte della critica, e per quel che ho avuto modo di leggere su alcuni organi di informazione baschi, quindi insomma abbastanza sensibili a questi temi, un film fatto anche con una estrema onestà intellettuale e politica. La narrazione sostanzialmente non entra nelle scelte politiche personali di Bobby Sands e generali dell'organizzazione a cui faceva riferimento, è la cronaca di quello che è successo a Lonkesh, dalle blanket protest fino alla morte di Bobby Sands. Una narrazione però che insomma sembrerebbe essere stata fatta non soltanto con estrema precisione, ma anche con estrema correttezza, cosa che non sempre accade quando si affrontano temi così complicati. E allora alle 11.33 con Hunger noi abbiamo terminato anche la puntata odierna di Radio Euskadi. Radio Euskadi che vi dà appuntamento a fra 7 giorni, lunedì prossimo, lunedì 7 di maggio, sempre intorno alle 10.15, sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Radio Euskadi, @autistici.org, la posta elettronica. Adesso un po' di musica e parole fino al mezzogiorno, corrispondenza operaia alle 13, come sempre il GR che andrà a chiudere la mattinata.